Essere e avere di Maria Luisa Pezzali. Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Immaginate di creare un prodotto che contenga gli ingredienti preferiti dagli italiani. Un alimento immaginario che riassuma la media dei valori di calorie, carboidrati, grassi, proteine e fibre presenti nei cibi acquistati dagli italiani. Otterrete la ricetta dell'alimento perfetto, quella messa a punto dall'osservatorio Immagino Nielsen GS1 Italy sulla scia delle etichette di oltre 31.000 prodotti alimentari, una ricetta che racconta molto delle nuove abitudini di spesa e di consumo. Street art e riqualificazione urbana si incontrano nel progetto Refresh the City firmato Sprite. I graffiti diventano strumento di marketing collaborativo. Focus sui trend dedicato infine alla mobilità del futuro, dai treni di lusso ai droni con passeggeri. A Roma, al Palazzo dei Congressi dell'Esposizione, si può ammirare in funzione il supermercato americano. Lo slogan è semplice, tutto alla portata di tutti. Si va dagli antipasti e si finisce alla frutta e al dolce. Finito il rifornimento, non resta che passare alla cassa. Sì, pagare si paga come da noi. Questo è l'unico inconveniente del supermercato americano. Come mai c'è tanta gente qui? Penso per me molto sia dovuto all'assortimento. Un cliente entra da noi e ci trova tutto. Spaghetti a 150 lire, carne, frutta, verdura, tutto fino al caviale e l'aragosta. E questo è molto importante perché si risparmia tempo e denaro. I'm all lost in the supermarket. I can no longer shop happily. I came in here for a special offer. Guaranteed personality. Che cosa raccontano di noi e delle nuove istanze di consumo i prodotti che acquistiamo ogni giorno al supermercato? Lo rivela il metaprodotto, l'alimento immaginario elaborato dall'osservatorio Immagino, l'iniziativa firmata Nielsen e GS1 Italy che analizza le etichette nutrizionali presenti su oltre 31.000 prodotti alimentari di largo consumo, tra confezionati, freschi, surgelati e bevande. Prodotti acquistati dagli italiani nell'ultimo anno. Un approccio inedito che fotografa i cambiamenti dei valori nutrizionali dei prodotti che finiscono sulle nostre tavole attraverso la ricetta di un super panino. Ce lo siamo fatti raccontare da Marco Cuppini, direttore Centro Studi e Comunicazione GS1 Italy. Questo super panino abbiamo chiamato metaprodotto, un prodotto che non c'è ma in realtà è la media di tutti i prodotti acquistati dai consumatori italiani nei supermercati e negli ipermercati. Si tratta di un prodotto in fondo equilibrato che conferma che gli italiani hanno comunque un buon rapporto con l'alimentazione. Quali sono le caratteristiche? Un alimento con basso valore energetico, ricco soprattutto di carboidrati, con un po' di grassi, poche proteine e pochissime fibre. Ma la cosa interessante è che noi abbiamo fatto questo esercizio anche con questo metaprodotto comperato e consumato l'anno precedente e l'abbiamo messo a confronto. E cosa viene fuori da questo confronto? Che noi italiani sembra che siamo sempre più attenti a quello che mettiamo nel nostro carrello della spesa e quello che mangiamo, perché abbiamo constatato che il confronto fra questi due prodotti ci dice che abbiamo comperato e consumato un prodotto con meno grassi, meno 1%, con sicuramente tante fibre in più, il 3-7%, con un po' più di proteine e con un po' più di carboidrati. Quindi in sostanza siamo attenti a quello che mangiamo perché capiamo che mangiare è la cosa più importante per prevenire problemi di salute e quindi cerchiamo di comprare prodotti più salubri o prodotti che hanno meno ingredienti potenzialmente pericolosi. Come siete arrivati a questi dati? Che tipo di metodologia avete applicato? Questo è interessante da raccontare. Noi circa 3 anni fa abbiamo iniziato un progetto che si chiama Immagino che aveva l'obiettivo di fotografare i prodotti che vengono venduti nei supermercati e negli ipermercati italiani e registrare le informazioni presenti sulle etichette. Per quale ragione? Per favorire lo scambio di queste immagini dei prodotti e di queste informazioni fra l'industria che produce i prodotti e le catene dei supermercati che le vendono. Questo per poter facilitare attività come per esempio pubblicare dei volantini promozionali oppure fare quello che sta diventando sempre più diffuso e più amato dagli italiani, l'acquisto online, perché i due elementi, la fotografia da una parte e le informazioni dall'altra, servono a costruire il cosiddetto scaffale digitale. E quindi abbiamo iniziato a raccogliere questi prodotti. Ad oggi ne abbiamo fotografati più di 80.000, abbiamo scattato più di 600.000 immagini, abbiamo coinvolto oltre 1.200 aziende di produzione e abbiamo quindi un grande patrimonio informativo. Questo patrimonio informativo, che sono le caratteristiche presenti sulle etichette, quando dico caratteristiche voglio dire tutto quello che c'è scritto, noi registriamo qualsiasi cosa, gli ingredienti, le tabelle nutrizionali, eventuali loghi, certificazioni, indicazioni sull'etichetta, certificazioni, qualsiasi cosa, la bandierina italiana per esempio, se la troviamo, e l'abbiamo trovata tante volte per inciso. Raccogliamo queste caratteristiche e poi insieme a Nielsen abbiamo messo insieme questo patrimonio di informazioni con le ricerche di mercato che tradizionalmente misurano quanto viene venduto e consumato dagli italiani. E quindi un patrimonio, si parla tanto di big data, qui siamo davvero in presenza di tante informazioni che consentono, noi diciamo, di leggere e raccontare i consumi degli italiani attraverso le etichette dei prodotti. In pratica avete capitalizzato i dati che da sempre voi raccogliete, ricordiamo perché, quindi chi siete e cosa fate? Noi, quando dico noi, parlo di GS1 Italy, siamo un'associazione innanzitutto che racchiude circa 35.000 associati in Italia fra aziende di produzione e aziende di distribuzione, ma facciamo parte di un network globale perché siamo presenti in 112 paesi, associamo circa 1,5 milioni di aziende. Per quale ragione? Perché noi, e qui si capisce di più quello che facciamo, siamo quelli del codice a barre, siamo l'organizzazione che in tutto il mondo gestisce questo standard, che è un vero e proprio linguaggio globale. E fra le tante attività abbiamo messo in piedi, tra l'altro primi nel mondo, noi italiani per una volta, questo tipo di progetto. Alcune persone vogliono rendere il mondo un posto migliore. Io voglio solo rendere il mondo un posto più bello. Se non ti piace, puoi dipingerci sopra. Banksy. Si chiama Refresh the City, l'iniziativa firmata Sprite che punta sulla street art, riqualificazione urbana e marketing collaborativo. Luca Ancona, marketing manager Flavors Coca-Cola Italia. Il punto di partenza per noi principale è il target del brand Sprite, che sono appunto i teenager. Quindi questo progetto nasce con l'obiettivo di stimolarli anche alla co-creazione di contenuti nell'interazione col brand. Infatti i teenager di fatto avranno la possibilità di caricare dei loro concept di street art fino al 30 giugno e questi concept poi verranno effettivamente realizzati da tre partner di Art Academy e quindi avranno poi la possibilità di essere fisicamente realizzati in queste quattro città italiane che sono Milano, Roma, Catania e Napoli. Gli artisti coinvolti quali sono? Allora, sono tre artisti di riferimento nel panorama italiano ed europeo, quindi che collaborano con Art Academy, e sono Mr. Weni, Edsom e Mate. E quindi saranno poi gli artisti di Art Academy ad effettuare materialmente i graffiti sulla scia appunto di questa call to action collaborativa con le idee dei teenager. Perché la scelta di Art Academy? Perché Art Academy è sicuramente una realtà di riferimento sia in Italia che in Europa. Operano da circa 15 anni in questo mondo della street art, sia con progetti e attivazioni a scopo pubblico, ma anche a scopo privato, quindi sicuramente sono l'elemento di riferimento tra i principali di questo settore, e quindi chiaramente col brand Sprite abbiamo voluto sicuramente dar la possibilità ai teenager di interagire con un partner di riferimento molto importante. Ora ci fermiamo per una piccola pausa, ma restate con noi perché nella seconda parte parleremo di mobilità del futuro, dai treni super lusso alle biciclette elettriche, passando per droni e aeroporti super efficienti. Essere e avere. Primo, innesti i circuiti del tempo. Questo ti dice dove stai andando, questo ti dice dove sei e questo ti dice dove eri. Focus sui trend. Non ci sono solo le auto a guida autonoma nei progetti sulla mobilità del futuro, intelligenza artificiale, iperconnessione, oggetti intelligenti da una parte e poi dall'altra sostenibilità, efficienza energetica e stanze antinquinamento stanno radicalmente cambiando non solo i mezzi di trasporto ma l'intera offerta di prodotti e servizi correlati alla mobilità. È lo scenario che stiamo per esplorare insieme a Lucia Cromesca di Future Concept Lab. Ciao Lucia. Ben trovata. Buonasera. Allora, iniziamo dai treni, soggetti al pari delle auto a una profonda trasformazione, con il primo caso che hai selezionato per noi e che arriva dal Giappone. Stiamo parlando di Shiki Shima, se lo pronuncio bene, che è un treno di lusso progettato dal designer della Ferrari Ken Onuyama, che rappresenta la nuova frontiera dei viaggi di lusso in Giappone, inaugurato il 1 maggio 2017. A metà tra un treno e un hotel a 5 stelle, ha un convoglio di 17 cabine e può ospitare al massimo 34 passeggeri. Ovviamente le sue cabine sono tutte delle suite arredate con gusto, ci sono anche delle aree lounge per socializzare con gli altri passeggeri, prendere un drink. Esiste anche una spettacolare cabina osservatorio che consente a tutti di godersi il panorama dall'alto e il personale a bordo è a disposizione per ogni esigenza dei passeggeri 24 ore su 24. Come un albergo di lusso, anche se su rotaie, i prezzi ovviamente sono altini. Oscillano tra 3.000 euro a 9.000 euro per un viaggio ovviamente di pochi giorni, tutto dipende dalla stagione e dal tipo dell'itinerario scelto. Prezzi poco economici, ma sembra che i biglietti sono già esauriti fino a metà del 2018. Beh, le immagini meritano veramente, come sempre sono sulla nostra pagina Facebook. Passiamo, Lucia, a uno dei simboli della mobilità del futuro, soprattutto per quanto riguarda le città, la bicicletta. Qui vediamo Mocche, una bicicletta elettrica che è stata ideata all'interno di Urban Drive Style, che è una attività molto dinamica che da anni opera nel settore della vendita e noleggio di particolarissime biciclette elettriche nell'isola di Mallorca in Spagna. E con la Mocche nasce dall'esigenza di poter trasportare agevolmente, oltre ai passeggeri, anche l'attrezzatura da spiaggia che le normali biciclette non potevano farlo, risultava molto complicato. La Mocche ha una portata di 180 kg e si ricarica in 4 ore. Include un display che fornisce tutte le informazioni su distanza e carica residua, è anche molto sostenibile. La struttura è realizzata in acciaio di altissima qualità e molto resistente. Il telaio è completamente verniciato con un polimero resistente ai graffi, no? Dovrebbe andare sulla spiaggia e potrebbe anche essere personalizzato. Questa e-bike è pensata per la famiglia. Infatti, il lungo sedile in pelle può essere separato in 3 moduli e adattato alle esigenze di trasporto, liberando addirittura la parte posteriore del telaio. Si possono fissare bauletti, portapacchi, seggiolini per i bambini, garantendo un'ottima alternativa di trasporto per distanze brevi senza rinunciare mai al comfort. Ecco, proprio questo sellino un po' allungato ricorda il look dei motorini anni 80, 90. Sì, insomma. È fantastico, un look. Ci ricordano i viaggi. Esatto, esatto. Il prossimo, Lucia, invece è un oggetto, anche questo, che ha un sapore vintage, ma rivisitato e che riguarda i più piccoli. Ecco, la Mountain Buggy è un'azienda incredibile. Hanno una filosofia aziendale che viene sintetizzata in tre parole: noi ascoltiamo, sviluppiamo, consegniamo. E qualche anno fa hanno progettato Unirider. È un prodotto che proprio traduce questo grande talento dell'azienda di far tesoro delle indicazioni dei consumatori, progettare oltre i passeggini, che è il core business, anche delle idee di trasporto ultra compatte e pratiche come Unirider, che è un monociclo per bambini. È un prodotto veramente geniale perché è stato progettato per portare in giro bambini da 2 a 5 anni, però in modo divertente. Un giocattolo che assomiglia a un passeggino e viceversa. È un trasporto alternativo che offre un'esperienza unica, assomiglia a un cavaluccio e nasce da un'idea di un papà britannico che cercava un'alternativa al passeggino, perché permette al bambino di godere il paesaggio seduto, cioè un piccolo sedile, ma anche spinto grazie ad una bara col manico attaccata al corpo centrale, e può essere usata senza sforzo con una sola mano. Addirittura un adulto potrebbe persino correre insieme al proprio bambino ovunque. C'è una grande ruota di 12 pollici che garantisce un comfort e un equilibrio su qualsiasi terreno. Pesa poco, smontato, l'Unirider potrebbe essere trasportato ovunque, persino dentro una valigia, diventando l'ideale compagno di viaggio per i piccoli esploratori delle città e non solo. Non solo mezzi di trasporto, abbiamo detto, ma anche tutto quello che ci sta intorno, come ad esempio gli aeroporti. Porti. Dove ci porti con il prossimo caso? Vi porto all'aeroporto di Oslo, anche perché è stato recentemente ampliato dallo studio Nordic Office of Architecture, raddoppiata la superficie, ma conservato lo stile razionale dell'edificio esistente, che è stato progettato nel 1998. Gli architetti coinvolti hanno introdotto delle soluzioni veramente progettuali interessantissime, che migliorano l'esperienza dei passeggeri, come l'uso di ampie vetrate che massimizzano l'illuminazione naturale e aggiungendo aree libere dedicate alla sosta e al relax, a cui gli architetti hanno dato delle forme organiche ispirate al paesaggio norvegese. Inoltre, questo progetto ha fissato dei nuovi standard per la sostenibilità degli edifici aeroportuali, essendo il primo nel mondo ad ottenere il voto eccellente secondo la certificazione BREEAM, che è la Building Research Establishment Environmental Assessment Method. Un risultato raggiunto grazie al fatto che gli architetti hanno cercato di massimizzare ogni risorsa disponibile. Per esempio, la neve caduta sulle piste durante l'inverno viene recuperata, conservata e poi usata per abbassare la temperatura e rinfrescare l'edificio durante il periodo estivo. Beh, dicevamo dunque efficienza energetica, e questa ne è una prova. Chiudiamo invece con uno sguardo che va oltre le auto a guida autonoma e ci proietta in un futuro in realtà molto più vicino di quanto si immagini. Di che cosa parliamo, Lucia? Parliamo di droni, ma ecco, parliamo della tecnologia di volo utilizzata dai droni, che da tempo è oggetto di interesse per il trasporto di esseri umani, applicata a un progetto specifico, un velivolo che assomiglia a un disco volante, una idea tutta italiana sviluppata da Paolo Lazzarini e la sua azienda, che è un'azienda nota per altri progetti tra virgolette futuristici, come l'imbarcazione Jet Capsule, che forse abbiamo avuto l'occasione di vedere in qualche puntata. Il nome del progetto è IFO, Identified Flying Object, non UFO, no? Specificando così che tutto è stato pensato dall'uomo e non da qualche presunta civiltà aliena. È un alternativo mezzo di trasporto che, come dice Lazzarini, si tratta di un disco volante di 4,75 metri con 8 motori elettrici. Non cambia molto rispetto alla tecnologia che sta alla base di un drone, ma viene pilotato dall'interno e può avere la stessa elevazione di un elicottero. Tra l'altro, tecnologie tutte già sul mercato. Esatto. Secondo Lazzarini, questo velivolo potrebbe raggiungere addirittura una velocità massima di 200 km orari e volare per circa un'ora e mezza. Nella capsula centrale di questo velivolo, di circa 2 metri, si possono sedere 2 passeggeri e in caso di emergenza questa capsula si può staccare. Un paracadute posizionato nella parte posteriore metterà in salvo i passeggeri, speriamo di no. L'azienda sta attualmente cercando investitori per la realizzazione di questo progetto IFO e chissà se presto in futuro potremo viaggiare su un drone da trasporto tutto italiano, facendo magari dei brevi e comodi viaggi da un'isola all'altra. Beh, questa sera ci hai fatto proprio viaggiare, Lucia, grazie come sempre, alla prossima. A presto. Il consumautore. Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo Francesco Morace. Buonasera Francesco, ben trovato. Grazie a tutti i radioascoltatori. Questa sera, me lo hai anticipato, parliamo di bellezza. Sì, parliamo di bellezza, parliamo di un libro di un tuo collega, Emilio Casalini, che qualche anno fa, non è un libro recentissimo, ha scritto questo testo Rifondata sulla bellezza, che però adesso viene ripreso spesso e soprattutto perché nell'ultimo capitolo lui lancia una proposta molto provocatoria. Il capitolo si chiama Di sana e bella Costituzione e la sua idea è quella di considerare la bellezza dell'Italia come il primo articolo della Costituzione, perché poi il lavoro può arrivare dopo, nel senso che sulla bellezza poi si può costruire il lavoro. Quindi l'Italia come repubblica fondata sulla bellezza, valorizzando quindi insomma tutti i nostri patrimoni di bellezza che sappiamo essere moltissimi. Sì, la cosa molto bella del libro è che in ogni capitolo Emilio Casalini parte con altri paesi, quindi racconta alcune esperienze sue, anche personali, in altri paesi, dove ad esempio in Cina emerge la forte appartenenza nell'essere cinesi, in India questa idea del paesaggio che è così centrale, cioè in ogni paese individua degli elementi che l'Italia dovrebbe valorizzare, che invece noi molto spesso dimentichiamo. Quindi l'identità competitiva dell'Italia è un concetto su cui ad esempio la Fondazione Italia Patria della Bellezza punta moltissimo. Una recente ricerca della fondazione quantifica in 240 miliardi di euro, il 16,5% del PIL, il valore dell'economia della bellezza in Italia. Parliamo quindi di moda, di design, di cibo e di turismo e di arte, appunto. Sì, la chiave interessante che viene proposta nel libro è che probabilmente un settore può raccogliere tutti questi elementi ed è proprio il turismo, e su questo Casalini fa il suo mestiere, che è quello anche di giornalista d'inchiesta, perché spiega come e perché siamo davvero molto indietro sia sulle infrastrutture. Pensate che nei 100 migliori aeroporti del mondo non ce n'è neanche uno italiano, oppure come ad esempio Bolzano abbia più movimento turistico di Roma, cioè che è veramente qualcosa che lascia senza parole. Quindi il bello come valore comune, un valore aggregativo. Come valore comune, come grande serbatoio anche di possibili risorse e anche come possibile chiave per produrre nuovi posti di lavoro, no? Quindi su questo non è solo la cultura, ma è anche proprio la bellezza intesa anche nel senso turistico e nel senso del mettere insieme tutte le nostre qualità. Grazie a Francesco Morace, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Essere avere finisce qui. A domenica prossima. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.